Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, vi annuncio la buona notizia che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, del quale parlarono ab antico i profeti da parte di Dio per lo Spirito Santo. Il Dio aveva preannunziato che il suo unto doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti. Infatti Dio aveva detto tramite il profeta Isaia: ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, e questo naturalmente in merito alla morte del Cristo. Per quanto riguarda invece la resurrezione del Cristo, Davide, che era profeta, aveva preannunziato la sua resurrezione, cioè la resurrezione del Cristo, dicendo nei Salmi: tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, queste scritture si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Infatti, egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti secondo le scritture, e dopo essere risuscitato apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque, io vi esorto a ravvedervi, a credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo. Perché chi crede che Gesù è il Cristo nasce da Dio. Cosa significa? Che chi crede che Gesù è il Cristo diventa un figliolo di Dio. Il Dio, infatti, lo rigenera mediante la parola del Vangelo e ne fa un suo figliolo. In sostanza, chi crede che Gesù è il Cristo viene rigenerato da Dio e diventa un figliolo di Dio. Quindi, se tu che mi stai ascoltando crederai nella buona notizia che Gesù è il Cristo, cesserai di essere un figliolo di ira, perché tu sei per natura un figliolo di ira, e diventerai un figliolo di Dio. Perché sei un figliolo di ira al momento? Perché sei sotto il peccato, sei un peccatore, quindi sei schiavo del peccato, e in quanto schiavo del peccato sei un nemico di Dio, perché il peccato è la violazione della legge, tu infrangi la legge di Dio, e quindi sei un nemico di Dio. E l'ira di Dio è sui suoi nemici. Ma nel momento in cui crederai nella buona notizia, ossia nell'Evangelo che ti ho annunziato, tu diventerai un figliolo di Dio. E bada bene, non solo diventerai un figliolo di Dio, ma sarai anche affrancato dal peccato che ora ti signoreggia. E otterrai la remissione dei peccati, di tutti i peccati che tu hai commesso finora, tu otterrai la cancellazione, credendo, sì, credendo nella buona notizia che Gesù è il Cristo. Ed oltre ad ottenere la remissione dei tuoi peccati, sarai reso giusto, giustificato. La tua fede, infatti, ti sarà messa in conto di giustizia. Tu quindi sarai costituito giusto. Non sarai più un empio agli occhi di Dio, ma sarai un giusto, sarai annoverato tra i giusti. Chi crede, infatti, nel Signore Gesù Cristo viene giustificato. Ed oltre ad essere giustificato, otterrai la vita eterna. Infatti è scritto che chi crede ha vita eterna. La vita eterna, infatti, è il dono di Dio, non è qualcosa che l'uomo si può meritare o si può guadagnare con i suoi sforzi o con le sue opere. La vita eterna è il dono di Dio. E chi crede nella buona notizia ottiene la vita eterna e quindi la possiede e quindi ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo e andrà ad abitare con il Signore nel regno dei cieli, perché il Signore salverà la sua anima nel suo regno celeste. Ma bada bene, se rifiuterai di credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo, intanto, come hai ben capito, rimarrai un figliolo di ira, quindi l'ira di Dio resterà sopra di te. Rimarrai uno schiavo del peccato. Sì, rimarrai schiavo del peccato perché avrai rifiutato di credere in ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E rifiutando di credere nella buona notizia, i tuoi peccati ti saranno ritenuti. Quindi continueranno a gravare su di te, sulla tua coscienza, che continuerà a riprenderti, ad accusarti. E quindi, se rifiuterai di credere nella buona notizia, rimarrai un empio. Rimarrai un empio perché avrai rifiutato la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede e che è rivelata nell'Evangelo. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. E rifiutando nell'Evangelo, ossia rifiutando di credere nell'Evangelo, tu te ne andrai in perdizione, cioè all'inferno. Quando morirai, dunque, l'inferno ti inghiottirà. Scenderai in questo luogo di tormento dove arde il fuoco e dove appunto vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Perché avrai rifiutato di credere che Gesù è il Cristo. Quindi bada bene a te stesso. Bada a te stesso, perché se tu rifiuterai di ravvederti e di credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo, ciò che ti aspetta è dopo la morte è una fine orribile, orribile. Perché te ne andrai in un luogo di tormento. D'altronde Gesù lo disse, dopo essere risuscitato dai morti, quando apparve ai suoi, disse: chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi io ti avverto, chiunque tu sia, se rifiuterai di credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo, sarai condannato. Dopo la morte, appena morirai, te ne andrai all'inferno. Ma vada bene, perché quando poi in quel giorno risusciterai, in risurrezione di condanna, tu sarai giudicato secondo le tue opere e gettato in un luogo di tormento che è diverso dall'inferno, cioè dall'Hades, in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai tormentato nei secoli dei secoli. Sarà un tormento senza fine il tuo, perché la parte degli increduli, te lo ripeto, la parte degli increduli, come ha detto il Dio, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Capisci dunque che cosa ti aspetta se rifiuterai di credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo? Ti aspetta una fine orribile, ti aspetta un'eternità piena di tormenti, di infamia, di vergogna. Io ti ho annunziato l'unico messaggio credendo nel quale tu puoi essere salvato, perdonato, giustificato e credendo nel quale tu puoi ottenere la vita eterna. Non c'è un altro messaggio. Non c'è. Perché non c'è un altro salvatore oltre Gesù Cristo. In nessun altro è la salvezza. Perché non v'è altro, sotto il cielo non c'è un altro nome. Come è scritto nella Bibbia, non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Credi dunque nel Signore Gesù Cristo e il Dio avrà misericordia di te. Sì, come ha avuto misericordia di me, il Signore avrà pure misericordia di te. Ma ti avverto per l'ennesima volta, se rifiuterai di credere nella buona notizia che Gesù è il Cristo, sarai condannato. Chi ha orecchi da udire?